742. Conserva liquida di cotogne. Fatta nella seguente maniera, si può conservar liquida per distenderla sul pane. Tagliate le cotogne a spicchi, levate la parte dura del torsolo, lasciate loro la buccia e dopo averle pesate, mettetele al fuoco coperte d'acqua. Quando saranno ben cotte, passatele. E rimettetele al fuoco con l'acqua ove hanno bollito e tanto zucchero bianco in polvere quanto era il loro peso da crude, aspettando di versarlo quando sono in bollore. Rimestate spesso e allorché versatane qualche gocciola in un piatto, non la vedrete scorrer troppo, levatela.